Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Picasso diceva che i colori, come i lineamenti del viso, seguono i cambiamenti delle emozioni. E il mondo è come una grande tela. Diventa tanto più ricco e interessante quanto più si mescolano le tinte. La storia che raccontiamo oggi a Destini Incrociati è quella di un grande artista, creativo ed eccentrico, eclettico e precursore dei tempi. Il suo nome è Jean-Paul Goud. Jean-Paul Goud. Ma per capire questo pubblicitario rivoluzionario, che ha giocato con gli stereotipi culturali e fissato immagini in modo indelebile nella memoria di generazioni, dobbiamo fare un salto nella redazione della rivista dove Goud ha cominciato. Rivista che è una vera e propria Bibbia della cultura del Novecento. L'Esquire. Esquire viene fondata nel 1933 da David Smart e Arnold Gingrich, che ne rimane alla guida fino al 1961. Il nome della rivista Esquire, che significa nobiluomo, scudiero, è stato scelto dallo stesso Gingrich in seguito a un aneddoto. Mentre stava controllando la corrispondenza, Gingrich trova una lettera in cui il mittente si rivolge a lui chiamandolo nobiluomo Gingrich. L'appellativo di sapore ottocentesco lo fa ridere. Da qui la scelta del nome della rivista, che fin da subito ne connota il tono ironico e irriverente. Esquire si occupa prevalentemente di moda e costume, e uno dei suoi tratti distintivi è la voglia di non prendersi troppo sul serio. Si rivolge a un pubblico maschile, ma gli articoli, le immagini, le interviste contenuti sono così interessanti da coinvolgere anche quello femminile. Abbiamo la conferma di questa grande vittoria dalle parole dell'attuale direttore, David Granger. Sono David Granger, direttore di Esquire. Sono veramente orgoglioso di far parte di un mondo mitico e creativo che è stato capace di provocare e cambiare la cultura dell'immagine. Esquire è un giornale nuovo, innovativo, sintonizzato sul suo tempo, ma che guarda al futuro. Proprio come la città in cui nasce e cresce la vivissima e multietnica New York. E come succede per Vogue o Playboy, nati principalmente come forme di intrattenimento, anche nel caso di Esquire, una natura leggera e spensierata diventa in realtà un affresco a tutto tondo su un mondo aperto, costantemente in discussione e sempre più senza frontiere. Esquire ospita gli scritti di autori del calibro di Ernest Hemingway, William Faulkner, John Steinbeck, Truman Capote e Norman Mailer. Gingrich, direttore illuminato, è uno dei pochi a pubblicare regolarmente i racconti di Francis Scott Fitzgerald verso la fine degli anni 30, tra i quali la serie con Pat Hobby come protagonista. Un altro segno importante di innovazione, come racconta nuovamente il direttore Granger. Era una sfida mettere insieme moda e cultura, apparenza e sostanza, ma Esquire è così, irriverente. Anche quando va in profondità ci tiene a non essere troppo serioso. Ogni anno Esquire pubblica la lista delle donne più sexy del pianeta. Ormai è una tradizione, un punto di riferimento nel mondo dello spettacolo. Questa classifica, infatti, è diventata così autorevole da muovere marketing e pubblicità. Lo racconta così l'attrice Scarlett Johansson, la vincitrice più giovane. Da quando sono apparsa nelle classifiche di Esquire, anche i miei cachet sono notevolmente aumentati. Alla redazione di Esquire c'è libertà creativa, si può sperimentare, giocare con le immagini. Non si bada alle convenzioni, alle regole tradizionali. La provocazione è all'ordine del giorno. E contaminazione tra le arti e tra le culture è la parola chiave. Lavorare a Esquire significa far parte di un mondo colorato e divertente, essere in contatto con le tendenze del momento ed essere proiettati verso tutto ciò che è nuovo ed esotico. L'uomo giusto a rappresentare questo spirito è Jean-Paul Goud, da sempre curioso e aperto ai nuovi incontri con cose, persone e sensazioni. D'altra parte, è la sua stessa storia ad avergli insegnato l'enorme ricchezza che viene dal contatto con l'altro, tanto più diverso quanto interessante. Jean-Paul Good, classe 1940, nasce in un sobborgo di Parigi, Saint-Mandé. Siamo nel pieno della guerra e la capitale francese è occupata dalle truppe tedesche. Il piccolo Jean-Paul è abituato a sentire, insieme alla voce della mamma, il rumore degli spari e dei carri armati. In quella stessa Parigi destinata a diventare crogiolo di etnie, adesso c'è il coprifuoco, bisogna stare attenti anche solo a mettere piede fuori casa e le leggi razziali sono state promulgate in tutta Europa. Jean-Paul è un ragazzo vivace e curioso, dipinge, crea, disegna su tutto quello che trova in giro. Ogni giorno prende la sua macchina fotografica e va in giro a scattare. I suoi amici, quando lui mostra felice le fotografie raccolte, non ne capiscono il senso. Sono abituati a immagini classiche. E le foto di Jean-Paul, angolature spostate, linee astratte, così nuove e sorprendenti, per loro sono semplicemente brutte. Lo prendono in giro. Ma Jean-Paul va dritto per la sua strada. È diverso dai compagni, non gli interessa giocare a pallone, tantomeno fare scherzi e ragazzate. Semmai, cerca di osservare la realtà con occhi critici. Cerca di capire ciò che succede attorno a lui. Il quartiere gli sta stretto. Sente la pulsione a conoscere quello che c'è fuori. Appena può, va in centro a vedere gli spettacoli più in voga del momento. I suoi locali preferiti sono Moulin Rouge e Crazy Horse, con balletti sfavillanti, scenografie futuristiche e donne mozzafiato, che non rispondono però ai suoi canoni estetici, come racconta lui stesso in un'intervista rilasciata a Luca Delfrà. Beh, nella mia giovinezza il modello femminile era ancora la donna bianca, bionda, occhi chiari, grandi tette e niente sedere. Al contrario, fin da giovane ero attratto da corpi scuri, muscolosi, con forme pronunciate e occhi allungati. Forse a spingermi c'è anche un'attrazione sessuale. Ma non solo. Jean-Paul è attratto da quei corpi statuari, come si è attratti da una statua di marmo bella e sinuosa. Il suo approccio non è solo istintivo, ma di amore per l'armonia delle forme. A incuriosirlo sono donne forti, mascoline, con una certa dose di virilità. Soprattutto donne che mostrino una complessità, una molteplicità di origini, una sintesi tra etnie e colori. Sono le donne vere che incontra per strada, al mercato, con le borse della spesa, bellissime senza saperlo, magari con un figlio in braccio e un altro per mano. Donne che hanno vissuto e che hanno qualcosa da raccontare. E Jean-Paul le fotografa incessantemente. Sente l'esigenza di immortalarle, per lui è quasi un'urgenza. Per i fotografi è così, il perché prova a spiegarlo Oliviero Toscani, fotografo provocatorio che ha firmato indimenticabili ritratti di uomini e donne di ogni paese. No, la fotografia ferma è l'unica immagine che ti mette in rapporto diretto con la tua coscienza. E la coscienza di Jean-Paul gli dice di lasciare Parigi per andare a scoprire il mondo. Sono gli anni 60 e il cuore vivo della multiculturalità è New York, la metropoli in continua espansione che vede un succedersi ininterrotto di flussi migratori, italiani, cinesi, polacchi, irlandesi, sudamericani. A New York c'è posto per tutti. È lì che Jean-Paul vuole andare. Mette da parte i soldi per partire, moneta dopo moneta, piccole mance a Natale e ai compleanni, tutto risparmiato per il viaggio della vita. Finché un giorno si siede sul letto, gambe incrociate, con in mano il vaso di vetro che da mesi usa come salvadanaio. Lo svuota, conta e scopre di avere abbastanza soldi. Sente che la grande mela è il posto che fa per lui. Jean-Paul arriva in quella New York vivace e divertente che accoglie a braccia aperte tutti gli artisti. Per strada cammina eccitato. È un po' spaesato, ma incredibilmente felice. Le luci di Times Square, le insegne luminose, suoni e colori, la città vibra sotto i suoi piedi con tutta la sua forza. È il posto perfetto per chi vuole vivere della propria creatività. Andy Warhol ha affittato il quinto piano di un palazzo della 47esima strada a Manhattan e ha messo in piedi la sua Factory, uno spazio collettivo per produrre idee. Così la descrive lo stesso Warhol. Tutti sono interessati alla Factory. Vogliono esserci. Perché alla Factory puoi esprimere il tuo talento, qualsiasi esso sia, e sentirti veramente libero di essere te stesso. Nel corso degli anni, di cui passeranno Jean-Michel Basquiat, Francesco Clemente, Keith Haring, oltre a tutte le grandi star della musica, dai Rolling Stones a Bob Dylan, da Jim Morrison ai Velvet Underground. La missione per tutti è sorprendere, proporre cose mai viste prima in qualsiasi campo, dare libero sfogo all'arte in tutte le sue forme, anche provocando. Tutto può essere una performance, persino Warhol, che si fa riprendere mentre zitto mangia un hamburger. My name is Andy Warhol and I just finished eating a hamburger. Quando Jean-Paul entra nella Factory per la prima volta, rimane a bocca aperta. Gente che dipinge, qualcuno che suona, altri che scrivono. C'è una ragazza che balla su un tappeto da sola e un'altra che gli offre della droga. Alle pareti opere di tutti i tipi, astratte, colorate, provocatorie. L'aria che si respira alla Factory è pura libertà. Quello che Jean-Paul ha sempre sognato, come racconta lui in un'intervista. Io volevo che il mio lavoro come creativo fosse a metà strada tra arte e artigianato. L'arte propone qualcosa di unico, con una forte impronta personale del creatore. L'artigianato produce oggetti in serie e più spersonalizzati. Warhol sintetizza questo spirito con le sue serigrafie. Ecco, io come lui volevo inventare prodotti con qualcosa di unico e legato alla mia personalità. A New York, Jean-Paul Goude può dare libero sfogo alla sua attitudine artistica. Disegna, improvvisa dipinti, scatta fotografie e gira video. È talentuoso, irruento, intraprendente. Il mercato è florido e le grandi case editrici non tardano ad accorgersi di lui. Tra queste, la casa editrice che pubblica Esquire, la rivista sulla cresta dell'onda che lo nomina Art Director. Da Esquire passano tutte le nuove tendenze. Una manna dal cielo per Goode, che le mode più che seguirle, inizia a inventarle. Quello che più interessa a Goode è ribaltare gli stereotipi. Nei suoi lavori prende dei simboli che hanno assunto un significato e gli dà un significato opposto. Per esempio, gli piace ritrarre i glutei prominenti dei neri. Si ricorda di quando a scuola, negli anni 50, gli avevano fatto leggere i manuali nazifascisti per non dimenticare una tragedia che era appena finita. E se nei trattati sulla difesa della razza proprio i glutei neri rappresentavano un simbolo negativo, emblema di una razza da perseguitare, per Goode quegli stessi glutei diventano espressione di forza e vitalità. La fotografia, in questo senso, ha un potere comunicativo impareggiabile, perché mette in gioco un intero background, come racconta sempre Oliviero Toscani. Viene coinvolta la tua cultura, la tua storia, la tua educazione, i tuoi tabù, le tue inibizioni di fronte a qualsiasi immagine. È l'unico mezzo di comunicazione che ha questa forza. Ce l'aveva la pittura una volta, ma la pittura in fondo non è credibile, perché la pittura non è la documentazione dei fatti che ci circondano, mentre la fotografia, fra l'altro, è anche quello. Goode si diverte a esaltare i gruppi etnici e sociali più disparati. Gioca con le immagini. Il suo è un immaginario composto da tribalità, istinto e colori. Confonde il brutto e il bello, li mescola, li mette in discussione. E lui stesso a spiegarci perché. Beh, estetica è una parola che non mi piace, bellezza ancora meno. Chiamiamola armonia. Perché la maggior parte del genere umano considera la Venere di Milo bella? Quasi che l'inconscio collettivo voglia stabilire una regola d'oro. No, non mi convince. Jean-Paul riesce a esprimere un concetto complesso in uno scatto, a trasmettere il messaggio con una sintesi incredibile. E così, in poco tempo, capisce che questo suo grande talento può essere canalizzato in una affascinante disciplina, la pubblicità, dove convivono creatività e tecnica, come racconta la studiosa di comunicazione Anna Maria Testa. Altre tecnologie ci sembrano distanti, ma sono linguaggi diversi che hanno grammatiche simili. Fin dall'inizio del Novecento, la pubblicità è una chiave artistica importante, che consente di mettere idee innovative e interessanti al servizio di un marchio, un'azienda o un prodotto. Goode, quando gli chiedono il primo spot pubblicitario per dei jeans, risponde semplicemente che farà quello che gli riesce meglio, colpire l'immaginazione dei giovani a cui si pensa di vendere quei pantaloni. I produttori si fidano e gli danno carta bianca. Il risultato è uno strepitoso inno alla diversità, con ragazzi neri dal look afro, vivace e coloratissimo. Una delle pubblicità più copiate di tutti i tempi. Per la prima volta, attraverso la pubblicità, un artista impulsivo come Goode deve lavorare a comando, scendere a compromessi. Ma è talmente bravo che riesce sempre a fare quello che vuole, portando a casa immagini che rendono felici tutti. Lui che prende ogni campagna pubblicitaria come avventura individuale e i committenti, perché di fatto il lavoro di Good funziona sempre. L'immaginario di Good è in continua espansione e il suo cervello produce idee una dopo l'altra. A volte si perde nei suoi pensieri e non parla per ore. Se sta facendo uno schizzo, possono chiamarlo, attirare la sua attenzione in qualsiasi modo, ma lui non risponde perché è perso nel suo mondo. Un mondo fantasioso, colorato, multiculturale, fatto di forme decise e caratteri forti. Un mondo dove i meticci sono uomini e donne perfetti, muscolosi e statuari. Un mondo divertente ed eccentrico, che prende forma nella sua testa. Finché un giorno, mentre è seduto alla sua scrivania, entra nella redazione di Esquire la donna che è esattamente l'incarnazione dei suoi sogni. Good ancora non lo sa, ma questa donna che si imbatte per caso nella sua vita gli stravolgerà l'esistenza. I get no kick from champagne, near alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Destini incrociati. A Destini incrociati siamo immersi nel cuore della vivace multietnica New York. Jean-Paul Good, artista eclettico e provocatore di origini francesi, ha conquistato la città con il suo immaginario fantasioso, fatto di improvvisazione e tribalità, figure afro e contaminazione, e i suoi spot di jeans hanno aperto un mondo. Lee Cooper. Ora Good fa il direttore artistico della prestigiosa rivista di moda Esquire. Ed è proprio qui, nella redazione, che un giorno viene folgorato. Nel grande loft nel cuore di New York, un open space ricavato da un'ex fabbrica, stringono i tempi per mandare a stampare il nuovo numero. E tutti sono affannatissimi. Good è seduto alla sua scrivania, davanti a lui la bozza di un servizio fotografico sulla storia del bikini. È povera, non sa di niente. È qualcosa di già visto. Istintivamente la strappa. Da rifare, subito da rifare. Good appoggia la testa tra le mani, è stanco. E questo numero ha un sacco di cose da aggiustare, ma poi, all'improvviso, sente un saluto squillante provenire dall'ingresso. Chi è? La visione lo fa rimanere a bocca aperta. La prima volta che l'ho vista non credevo ai miei occhi. Lei era una pantera, nera, alta, forte, con un'espressione potente. Incarnava la figura perfetta che da anni ricercavo nella mia testa. Lei, la pantera, è a Esquire perché fa la modella e deve partecipare a un casting. È bellissima e un po' superba, elegante e sexy allo stesso tempo. Good si alza di scatto e va a parlarle. Lei con un sorriso allunga la mano e si presenta. Si chiama Grace Mendoza. Ma ha delle velleità, vuole lavorare nello spettacolo e per questo ha scelto un nome più internazionale: Grace Jones. Grace Jones. One at a time, please welcome the incredible Grace Jones. Grace e Jean-Paul parlano. Lui le offre un caffè, poi un altro. Si dimentica completamente del giornale da finire. Quando i suoi collaboratori arrivano con delle proposte per il numero in chiusura, lui approva tutto velocemente, con un cenno della testa, per non perdersi neanche un minuto di lei. E Grace, dal canto suo, è ipnotizzata dallo sguardo brillante di questo artista. La colpisce e i suoi modi la conquistano a tal punto che si scorda del provino. È lei stessa a ricordare la sensazione di quel primo incontro. Sentivo che lui poteva fare tutto quello che desiderava. Poco a poco diventa buio e fuori in New York si accende con le sue insegne luminose. Mentre tutti lasciano la redazione, Grace e Jean-Paul stanno ancora chiacchierando, completamente presi l'uno dall'altra. Tanto che decidono di continuare la serata fuori. E al tavolo di un ristorante, con un bicchiere di vino davanti, Grace incomincia a raccontargli la sua storia. Grace Mendoza, vero nome di Grace Jones, nasce a Spanish Town, Giamaica, nel 1948. La città che una volta era la capitale coloniale, prima spagnola e poi inglese, oggi è patrimonio dell'umanità. Ha un sapore magico, in cui si fondono gusto retro e progresso tecnologico, e i visi della gente sono la prova di un miscuglio di etnie e culture che dura da decenni. In Giamaica l'aria è intrisa di spiritualità. A Spanish Town c'è la più grande chiesa anglicana fuori dal Regno Unito e magia e culti esoterici sono diffusissimi, stregoni, riti, decine di divinità. Lo stesso padre di Grace è un pastore evangelico, mentre la musica reggae si fa portavoce del messaggio della religione Rastafari, che predica la liberazione dell'Africa da parte di tutti i neri sparsi per il mondo. Normale per la piccola Grace prendere un po' da tutte queste influenze, come racconta lei stessa. Crescere in Giamaica con quel grande background religioso ha reso la mia immaginazione sconfinata, aperta a tutto. Grace Jones ama il suo paese, la Giamaica. Ma quando a metà degli anni 60 suo padre le annuncia che si trasferiranno a New York, è entusiasta. È una ragazza vivace, curiosa, intraprendente e fa quello che vuole senza curarsi dell'opinione degli altri. Anzi, si diverte a provocare. Se i suoi genitori le dicono di coprirsi perché è troppo svestita, lei accorcia la gonna e mette una scollatura più profonda. Se le dicono di truccarsi in modo più sobrio, esagera coi colori. Lo fa apposta. Si fa beffa del perbenismo. La sola cosa che le interessa è conoscere posti nuovi, incontrare culture diverse dalla sua, mescolarsi con la gente. Lo ricorderà a distanza di anni. Ero l'unica ragazza nera di tutto il liceo. All'inizio volevo diventare un insegnante di lingue. Parlo francese, spagnolo, giapponese, italiano e tedesco. E poi tutto è cambiato quando ho incontrato il mio insegnante di recitazione. Per Grace è una svolta. Finalmente capisce che il palcoscenico è il posto giusto per incanalare tutte le sue energie. Sa ballare e ha una voce intensa e profonda. Ma non è una strada facile. A New York ci sono decine di ragazze che aspirano al successo. La concorrenza è spietata. Grace, consapevole di avere un corpo da statua di marmo, incomincia a fare la modella. E la sua famiglia la prende malissimo. Mia mamma ha cercato di convincermi a fare la casalinga, come lei, a stare a casa. Ma a me piacevano le feste e gli uomini. Sai, la vita è breve. Grace riesce a mantenersi facendo servizi fotografici. Le piace, ma l'attrazione verso la musica si fa sentire sempre più forte. E così, per farsi notare, inizia a cantare alle feste, sui tavoli. Sempre più spinta e provocatoria, indossa tute di latex nero e fa schioccare frustini sadomaso, sconvolgendo le notti newyorkesi. D'altra parte, gli anni 70 a New York sono fatti di serate eccessive a base di sesso e droga. Un locale che sintetizza lo spirito del periodo è il mitico Studio 54. Musica altissima, luci accecanti, il giusto contenitore per la stupefacente nuova generazione. Ogni sera si promettono una festa incontenibile ed emozioni nuove. Un'atmosfera proibita ed esagerata, quella dello Studio 54, raccontata nell'omonimo film del 1998 dal regista Mark Christopher. Un certo Steve Rubella aveva un sogno: organizzare la più grande festa che si fosse mai vista e farla durare in eterno. Creò un mondo che divenne qualcosa di reale, dove una reginetta di 80 anni poteva scatenarsi fino all'alba, dove le modelle si univano ai meccanici, gli idraulici ballavano con le principesse, un posto dove non c'era spazio per le etichette, un posto dove non esistevano regole. Le performance di Grace diventano famose, soprattutto nell'ambiente gay, di cui in breve diventa una vera e propria icona. Canta nelle discoteche, improvvisa show provocatori, stuzzica il pubblico con esibizioni erotiche. Trasgressione è per lei la parola chiave. Sono sempre stata una ribelle. Me ne frego delle regole. C'è un discografico che intravede in Grace un guadagno facile. È bella, dotata vocalmente, incredibilmente sexy. E così le fa incidere alcune canzoni sull'onda del successo della disco music che sta spopolando ovunque e in tutto il mondo invade le classifiche. Grace inizia a condurre una doppia vita. Da un lato, piccola divetta della disco, che paradossalmente per rispondere alle esigenze del mercato deve scendere a compromessi con l'inevitabile perdita di spontaneità ed energia che l'aveva fatta conoscere in tutta New York. E dall'altro, modella, che continua a fare casting per servizi di moda e spot pubblicitari. proprio come il giorno in cui, entrando nella redazione di Esquire, viene folgorata da Jean-Paul Good. Adesso sono al ristorante insieme, Jean-Paul e Grace. Si sono appena conosciuti, ma è stato un colpo di fulmine. Tra i due si è creata un'attrazione naturale. Jean-Paul ha intravisto in questa ragazza di colore dalla corporatura impetuosa e gli occhi penetranti qualcosa di più di una semplice starlet della disco come tante altre. Il ricordo di quel brivido avuto al primo sguardo è indelebile nella sua memoria. In fondo sono un puritano e come molti puritani sono attratto dal peccato, dal suo mistero. Quando mi innamorai di Grace, volevo stare con lei per capire, scoprire cosa ci fosse dietro il fascino di quella donna. Beh, e poi è venuto il resto. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo a New York, è la fine degli anni 70 e c'è una giovane coppia innamorata che passeggia per Central Park mano nella mano. Lui è Jean-Paul Good, un artista pubblicitario sulla cresta dell'onda, art director della rivista di moda Esquire e autore di spot irriverenti e provocatori. Lei si chiama Grace Jones ed è una statuaria modella e cantante che ha fatto della trasgressione la sua filosofia. Grace è la regina di New York, non manca mai a un party. Anche Andy Warhol ne è colpito e si fa spesso accompagnare nelle lunghe notti di eccessi dello Studio 54. Grace si diverte, incide brani dance, è un'icona gay, ma sempre di più è insoddisfatta. La vita che conduce era eccitante all'inizio, ma ora sente il bisogno di realizzarsi professionalmente. Essere una divetta della disco poteva andare bene prima, ma ora non più per lei. Lei vuole fare davvero spettacolo, cantare, ballare, esibirsi. I have a lot of vanity. D'altra parte, lo stesso Jean-Paul, più contenuto, meno mondano, non è contento di vederla tornare a casa ogni notte all'alba, di vederla fotografata sui giornali ubriaca. E si arrabbia con lei perché pensa che stia gettando via tutto il suo talento. Ha paura che andando avanti così diventerà solo una meteora nel mondo della musica e che farà la fine di molte cantanti che hanno i loro 15 minuti di gloria, per citare lo stesso Warhol, e poi vengono dimenticate. Così una notte, dopo una furiosa litigata, lei si arrende. Si lascia abbracciare da Jean-Paul e gli chiede aiuto. È lei stessa a ricordare quel momento con grande tenerezza. La sua presenza era importante. Mi faceva sentire sicura. Avevo bisogno di lui per riprendere in mano la mia vita, per dimostrare che valevo, che non ero solo una starlet da quattro soldi. Jean-Paul si rimbocca le maniche e mette ordine nella vita di Grace. È stata lei a chiederglielo e lui la prende come una commissione. È un pubblicitario e ragiona con le logiche di marketing. Grace, da questo momento, per lui è un prodotto da vendere e il suo obiettivo primario è quello di darle un'immagine diversa. Il mondo è come un grande supermercato con un'offerta illimitata, ma tutti dovranno comprare lei. Jean-Paul si siede alla scrivania e comincia ad accennare schizzi. Tutto, pensa, deve partire dal look. Ogni caratteristica che solo si intuisce va esasperata all'ennesima potenza. Dato l'aspetto mascolino, via libera all'ambiguità anche nell'abbigliamento. Jean-Paul studia tutto personalmente, diventa uno stylist, va lui a comprare i vestiti per Grace. È proiettato nel futuro e futuristico è l'aspetto che sceglie per la sua musa. Allo stesso modo, ripensa ai suoi capelli e inventa quel taglio severo, quadrato, rigoroso che la farà diventare famosa nel mondo. E solo alla fine, perché come pubblicitario sa bene che il messaggio passa prima dall'immagine, bisogna ripensare alla musica. Jean-Paul prende riferimenti come i Talking Heads e Brian Eno, che si mescoleranno con l'impronta giamaicana di Grace, costituita dal reggae e dalla dance. Ancora una volta, la parola chiave è contaminazione. Run, run, run, run. Yeah. e Jean-Paul, che sta dando una direzione alla carriera di Grace. E lei, poco a poco, sta diventando una donna nuova. Adesso, con il nuovo taglio di capelli quadrato e un look androgino ipertecnologico, è pronta a fare il grande salto. Ma serve ancora qualcosa di forte. Di fianco a lui c'è il suo portfolio e con un gesto veloce lo apre per cercare ispirazione. Si trova davanti quel progetto a cui sta lavorando da anni, ma per il quale non riesce a trovare una chiusura all'altezza. È un lavoro sulla danza che, in pieno stile good, multietnico e colorato, ritrae ballerini di tutte le nazionalità. Un lavoro provocatorio che ancora una volta vuole ribaltare gli stereotipi, come spiega lui stesso. La danza mi interessava perché volevo rovesciare un luogo comune. Volevo dimostrare che i neri non ballano meglio o peggio dei portoricani o dei bianchi, ma lo fanno molto diversamente. In quelle foto la figura dei più democratici la fanno i gay, perché sono di tutti i colori e razze. In un attimo la folgorazione. Grace è la ballerina mancante. Non ci pensa due volte, va a svegliarla, la prende per un braccio, non le dà neanche il tempo di bere un caffè. La fa spogliare nuda, le mette una fascia rossa sul seno e una ginocchiera dello stesso colore sulla gamba sinistra e le fa alzare la gamba dietro come nel più classico degli arabesque. Scatta e poi ritocca la foto. Ma non ha problemi ad ammetterlo. Anzi, a chi gli chiede se abbia truccato l'immagine per correggere la natura, risponde: io nasco come disegnatore, sono abituato a correggere e a ricorreggere. Serve all'immagine, perché il mio obiettivo è colpire l'inconscio con un'idea estetica. L'immagine fa il giro del mondo e, proprio come aveva previsto Jean-Paul, in poco tempo è sulla bocca di tutti. Grace inizia a essere chiamata per la pubblicità, interviste, trasmissioni in televisione, perfino da Hollywood, che la vuole come Bond Girl, in uno dei ruoli più ambiti dalle attrici dei cinque continenti, un ruolo che spesso è una consacrazione. La carriera di Grace, la pantera nera dalla voce profonda, con il trucco futuristico e i capelli quadrati, decolla in modo vorticoso. Jean-Paul tifa per lei e guarda il suo successo felice e soddisfatto. Grace Jones è certamente una diva mondiale e il suo look strepitoso ne ha fatto un'icona di tutti i tempi. D'altra parte, ne è lui il grande artefice, come ricorda la stessa Jones. Senza di lui non ce l'avrei mai fatta. È il mio guru, il mio maestro, il mio pigmalione. Se il successo di Grace è travolgente, l'impatto della fotografia non è meno rilevante nella vita di Good, che ancora una volta ha dimostrato di precorrere i tempi, di guardare al futuro con una mente contemporanea. Soprattutto, ha dimostrato che tutto è possibile se si dà spazio all'immaginazione. Anche che un artista bianco francese e una modella nera giamaicana, diversissimi sotto ogni punto di vista, possano seguire, mano nella mano, la strada del successo. To the river, to the river, love to the river, slave to the river. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.